Jetzt bitte Herr Forni über Linea di Roma. Ecco, se posso, è uscito il ecco, io le do allora questo, lei forse può. Questa è una novità proprio. Ich kannte bisher nur das Manuskript und die Druckbögen von dem Fascikel 150 bis 151 der Studi Storici, die das Istituto Storico Italiano per il Medioevo herausgibt. Das ist Alberto Forni, La questione di Roma medievale, una polemica tra Gregorovius e Raymond, Roma nella sede dell'Istituto Palazzo Borromini 1985, also vor kurzem erschienen. Im Juni gab es das noch nicht. Wann es genau erschienen ist? Der Verfasser hat es selber noch nicht gesehen. Das Allerneueste, Professor Arnaldi hat es also aus Rom mitgebracht, der heute zum ersten Mal hier ist. Über das Thema seines Buches spricht Herr Forni jetzt allerdings ein wenig kürzer als das Buch ist. Il professor Arnaldi, allora lo salutiamo, lo ringraziamo, poi in fondo... Allora un applauso a questo libro. Il confronto tra Ferdinand Gregorovius e Alfred von Roymond, tra un prussiano dell'Est ed un renano, tra un protestante ed un cattolico, tra un liberale ed un conservatore, costituisce la parte centrale di un articolo di Raul Manselli, La storiografia romantica e Roma medievale, pubblicato nel 1977 sull'archivio della Società Romana di Storia Patria, nel centenario della fondazione di quell'istituto. Il saggio del Manselli può essere accostato ad un altro articolo, precedente di 40 anni, scritto nel 1937 da Giorgio Falco ed intitolato Storie e storici di Roma medievale. Falco ripercorreva le risposte alla domanda se fosse possibile o meno scrivere una storia di Roma nel Medioevo. I precedenti erano tre, tutti tedeschi. Di Felix Papenkort, Loeffler aveva pubblicato nel 1857 come opera postuma La Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Essa però esprimeva, a dire del Falco, un punto di vista unicamente politico. Tra il 1855 e il 1872, Ferdinand Gregorovius aveva scritto un'altra Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, la più fortunata della triade, ammirata da Falco per la sua ampiezza di vedute e la capacità di coniugare protestantesimo ed illuminismo, Melantone e Gibbon, senza sacrificare la ricchezza dei fatti storici agli ideali politici e religiosi, all'odio o all'amore per la ragione, la rivoluzione, il cosmopolitismo. Alfred von Roymond, infine, aveva redatto una Geschichte der Stadt Rom dalle antiche origini della città fino a Pio IX, tra il 1866 e il 1870, come Gregorovius, quindi, nell'imminenza dell'andata piemontese a Roma. In lui Falco trovava una trattazione sommaria del Medioevo, limitata al secondo dei quattro volumi, ed una certa angustia nel giudizio di stampo cattolico. Il Manselli, invece, pone in giusta luce il valore del Papenkort, utilizzando piuttosto l'opera su Colla di Rienzo che la Geschichte della Stadt Rom im Mittelalter, la quale, disorganica a volte, è di difficile lettura e comunque incompiuta. Un valore fondato sull'enunciazione di un principio, l'andamento inceppato e lo sviluppo incompleto della vita civile della Roma medievale rispetto alle altre città italiane. Ma è soprattutto il Roymond ad essere rivalutato, sulla scia di quanto nel 1973 aveva fatto in Germania Hubert Jedin. Di qui il necessario confronto con il Gregorovius, che permette di individuare, tra tante diversità di origine, ceto, religione, fede politica, generazione, un elemento comune di somiglianza, l'appartenenza ad una storiografia in cui preminente, ancor più che la critica delle fonti, è la rappresentazione, l'organicità espressa dal racconto storico. Grisar, si sarebbe posto alla fine del secolo il problema se scrivere una storia di Roma o una storia dei papi. Pastor non avrebbe avuto dubbi. La storia Roimont, ammiratore di Rosmini e preoccupato per l'indifferenza religiosa diffusasi nell'urbe, sarebbe diventato lo storico della Roma medievale. Gregorovius, nato nel 1821 a Neidenburg e quindi più giovane di 13 anni del Roimont, nel 1848 frequentava i circoli liberali dell'Università di Königsberg, presso la quale ascoltava le lezioni di Karl Rosenkranz, il più noto rappresentante della destra hegeliana. E nell'Ästhetik des Hässlichen, l'estetica del brutto, pubblicata da Rosenkranz nel 1853, trovò conferma e forse ispirazione per il suo stile pronto a ricercare a volte il manierismo ed il barocco. Ma la Königsberg del 1848 gli ispirò anche il primo scritto di storia, Die Idee des Polentums, due volumi di storia delle sofferenze della Polonia, dedicato a Joachim Lelewel, lo storico patriota, l'eroe del 1830, l'amico di Mazzini. L'opera si conclude con un invito alle potenze europee perché risolvano pacificamente la questione polacca. La delusione fu cocente. Dopo il fallimento del 1848, un anno che coinvolse e travolse altri storici tedeschi come Gervinus, Gregorovius abbandonò la Germania per la Corsica, l'isola dove dai tempi di Seneca non sono che due cose, l'esiliato e l'esilio, e sulla quale scrisse un'opera, al tempo stesso storia politica e vanderiare, quindi colma di spunti di storia culturale, artistica, della mentalità. Nel 1852 arrivò a Roma. Nel 1854 prese la decisione di scrivere La Geschichte der Stadt Rom in Mittelalter. Fu, come lui stesso racconta, un'ispirazione, avuta contemplando dal Ponte Cestio la Roma classica del Palazzo dei Cesari e il pittoresco medievale delle casupole trasteverine, insieme ai ricordi di Sant'Adalberto annessi alla chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina. Apparentemente ispirazione d'artista romantico, era in realtà la consapevole aspirazione a ripercorrere le fortune di Gibbon, che dal contrasto tra i frati salmodianti della Raceli e i ricordi del tempio di Giove Capitolino aveva tratto auspici per la sua history. Ciò che spingeva Gregorovius nella crisi della storiografia liberale tedesca a seguito degli eventi del 1848 erano i rapporti straordinari tra Italia e Germania che ebbero il loro polo in Roma. Roma è vanto inestinguibile per la nazione tedesca. La storia medievale della città è diventata un indistruttibile fondamento della storia della Germania. Il motto dei monumenti a Germania storica, Sanctus Amor Patriae Dat Animum, fu per Gregorovius rivolto verso due nazioni che lottavano per la propria indipendenza. La visione della Roma medievale, in Gregorovius e in Roimont, risuona degli eventi politici contemporanei. La stesura delle due opere fu inoltre accompagnata dall'uscita di altri lavori, di pamphlet più direttamente legati alla questione romana e alla sua soluzione. Se la storia di Roma del Medioevo non può essere che storia del papato, la prima domanda è sulla durata nel tempo del papato stesso. Nel 1857 Gregorovius fece le prove generali della Geschichte con l'opera di Graf Denkmäler der römischen Päpste, i sepolcri dei papi romani, una passeggiata per la via Appia del papato. Non si tratta di storia dell'arte, per quanto il libretto abbia ottenuto molta fortuna, soprattutto per la raccolta di epigrafi. Accanto a ciascuna tomba, lo storico riflette su chi vi è sepolto. L'opera si conclude con la profezia di Malachia, che esprime la convinzione dell'autore su un'imminente fine del papato. Ma il liberale Gregorovius credeva troppo nei principi universali e nel 1867, recensendo il lavoro del Bryce sull'impero romano, ne accettò la tesi dell'apparente crollo definitivo del Medioevo, della Chiesa e dell'Impero, in realtà principi universali sviluppatisi in nuove forme. D'altronde, papato e cattolicesimo sono forme saldamente impresse nella nazionalità latina e termineranno solo con la razza latina, e Gregorovius è convinto che non si debba misurare il mondo latino, nei suoi moti spirituali, con criteri germanici e protestanti. I papi di Gregorovius, infatti, non sono sempre oggetto di critiche. Gregorio Magno ha scritto i dialoghi e meglio sarebbe se la critica ne disconoscesse la paternità, perché consacrarono una superstizione con l'autorità di un illustre pontefice. Ma lo ha fatto per la particolarità dei sensi del popolo latino, bisognoso del cerimoniale delle processioni, di venerare sudari e catene, ma lo stesso Gregorio, assumendosi il compito di condurre fuori dagli scogli una nave su cui non erano imbarcati solo dei romani, ma anche dei longobardi, non fu un esclusivista romano, fu un nazionalista italiano, anzi un liberale nel più ampio senso, visto che prestò ascolto ai lamenti del popolo della selvaggia Corsica. Il romano Gregorio VII può essere accostato, come aveva fatto Johannes Voigt nel 1815, al tedesco Lutero, entrambi riformatori, entrambi aggrappati ad una sola grande idea, entrambi convinti della propria verità e del proprio diritto. Tuttavia, con Ildebrando, Roma se perdette in democrazia per il noto decreto del 1059 e l'importanza politica di fronte alle città lombarde, guadagnò tornando ad essere città universale e cosmopolita. Pasquale II tentò di rinunciare nel 1111 a quanto Gregorio VII aveva conquistato nella lotta per le investiture, ma i tempi non erano maturi per un ritorno della Chiesa ai propri compiti spirituali, e lo storico può solo condividere la lode di Rosmini sull'immortale pontefice e sul suo santo ed elevato linguaggio, e ricordare che le origini del discorso di Cavour del 25 marzo 1861 risiedono nel Dimittat Ecclesias Liberas del pactum tra Pasquale ed Enrico V. Per quanto riguarda Alessandro VI, Gregorovius si rifiuta di apprezzare, come fa Roimont, le sue qualità di principe temporale, adatte a tempi selvaggi e confusi, ma assolve in pieno Lucrezia Borgia, cancellandone la tradizionale figura di una furia dai lineamenti di una grazia, con in una mano l'ampolla del veleno e il pugnale nell'altra. Clemente VII, infine, fu un papa mediocre, ma per l'ultima volta assunse il ruolo di rappresentante del popolo italiano e si propose di far trionfare il grande e secolare ideale della liberazione d'Italia ed Europa, l'ideale che era stato di Ildebrando. L'ultima volta, prima che Pio IX riprendesse nella prima parte del suo pontificato, l'idea unitaria. Ma solo l'alleanza del 1866 tra Italia e Germania avrebbe realizzato le speranze d'Italia, e nel 1870 la storia si sarebbe ripetuta come nel 1527. A Francesco I si è sostituito Napoleone III, Carlo V è diventato Guglielmo I, Pavia si è ripetuta a Sedan, l'armata imperiale entrò a Roma il 20 settembre 1526, Pio IX si trova ora in Vaticano in condizioni migliori del Clemente VII rinchiuso in Castel Sant'Angelo. Questi paragoni con la passata storia della città di Roma, Gregorovius li esprimeva sull'Augsburger Allgemeine Zeitung del 25 luglio 1871, in un articolo, Der Sturz des Papstum in Rom, che per quanto anonimo fu una delle cause della condanna all'indice nel 1874 della Geschichte. È da notare che quasi contemporaneamente Roimont indirizzava da Bonn il 12 dicembre 1870 un pamphlet pro-romano pontifice per denunciare la slealtà di Vittorio Emanuele, il cui comportamento veniva accostato all'usurpatore Arduino di Ivrea. Un pamphlet che provocò aspre reazioni negli ambienti liberali e una risposta nel libello pro populo italico del croato Imbro Talac Ignacevici. L'attività pubblicistica era il riflesso del pensiero espresso nelle due Geschichte circa l'origine dello Stato Pontificio. I due storici divergono sull'atto d'inizio, sulla finalità, sullo sviluppo. Per Gregorovius l'origine dello Stato Pontificio fu democratica, perché fu il popolo romano, riunito in Parlamento, ad approvare la proposta del Papa di concedere a Pipino il titolo di Patricius. Per Roimont tale concessione fu un motu proprio di Stefano III, ossia la decisione di un sovrano assoluto. Per Gregorovius i papi si crearono con il tempo uno Stato ad opera d'arte, fondandosi sulla propria abilità diplomatica. Per Roimont lo Stato della Chiesa si formò nel giro di pochi anni, senza un piano predisposto, senza l'ausilio della diplomazia pontificia, che avrebbe operato stabilmente solo a partire dal XIII secolo, prodotto della necessità storica per garantire l'indipendenza del papato nello svolgimento della sua missione. La polemica continuava sul tema più delicato ed oscuro, la vita civile della Roma medievale. Roimont si rifiutò di dedicare un capitolo a parte alla Renovatio Senatus del 1143 e inserì quegli eventi che avevano entusiasmato il Papa in corte di Gregorovius in un capitolo dedicato anche agli Hohenstaufen. D'altronde, lo stesso Gregorovius era costretto ad ammettere che se il comune romano non fu consolare aristocratico come i comuni lombardi, ma borghese fin dall'inizio, tale borghesia non si distinse dalla vecchia aristocrazia, creando a Roma quella nobiltà come casta aperta che era tipica di Venezia. Pier Leoni non fu diverso da Torlonia, allora come oggi, è il feudo che crea duchi e baroni. Insomma, Roma, che per tutto il Medioevo non espresse una propria vita culturale, che non riuscì a prestare al papato i fondamenti stessi della sua autorità, visto che le decretali pseudo-isidoriane o il diritto canonico vennero elaborati lontano da essa, visse unicamente delle proprie illusioni. Il Medioevo fu per Roma più distruttore che creatore, sostiene Reumann. Le due storie di Gregorovius e di Reumann non furono molto apprezzate dal mondo accademico tedesco. La loro utilità fu tuttavia grande. Gregorovius attinse a piene mani dagli archivi italiani, con l'unica eccezione dell'Archivio Vaticano, ciò probabilmente per contrasti con il Tainer. Gli riuscì tuttavia, tramite una raccomandazione del Reumann al cardinale Antonelli, di consultare i codici della Biblioteca Vaticana. In una lettera ad Hermann von Thiele racconta come si accostasse ai codici vaticani sotto le sembianze di uno studioso di topografia, presentandosi cioè come continuatore di quegli studi di Niebuhr Bunsen già noti e che non destavano sospetti. In realtà utilizzava quei codici per una storia del papà. Reumann fu oltremodo utile perché, pur rinunciando a priori alle ricerche d'archivio, intese fare una grande rassegna bibliografica. Ad esempio, prima che la Roma sotterranea cristiana del De Rossi venisse completata, Reumann ne aveva preparato, nella Geschichte, l'epitome per la Germania. Il diverso giudizio che Gregorovius e Reumann diedero sul Medioevo di Roma derivava dalla diversa risposta alla domanda sulle origini della Gestalt della Roma tra il 1850 e il 1870. Per Gregorovius, la Roma di Gregorio XVI e di Pio IX è la stessa di Gregorio II e di Aldebrando. Senza quei tre grandi valori, universali, il papato, l'impero e la vita cittadina, che avevano permesso di trasformare una Stadtgeschichte in una Weltgeschichte. Per Reumann, la Gestalt della Roma contemporanea non risale al Medioevo, ma al XVII e al XVIII secolo, all'età barocca, in cui, al dire di Ranke, Roma continuava ad essere una capitale della cultura. Circa il futuro, Gregorovius non esclude che l'Alma Roma non ritorni ad essere il centro di una federazione del genere umano e dell'idea della sua unità, magari con il presidente degli Stati Uniti d'Europa al posto del Papa. Reumann non può invece che rifarsi al maestro Ranke, che chiudeva la nuova edizione dei Päpste nel 1874, con l'avvertenza che il futuro del papato dipenderà solo dal modo con cui, nella nuova situazione, sarà possibile esercitare l'autorità religiosa. Con l'arrivo dei piemontesi finisce il cosmopolitismo e il pittoresco medievale romano. Gregorovius scrisse di pelle di fuoco contro il progetto del deputato Garibaldi di deviare il Tevere, contro la distruzione della Villa Ludovisi o l'erezione del monumento a Vittorio Emanuele. Inizia intanto un'aspra polemica tra Gregorovius e Reumann sull'Allgemeine Zeitung in merito alla storia di Roma nel Medioevo, sulla priorità nell'idea e nella stesura, ma soprattutto sul metodo e sul suo futuro. Il 29 novembre 1877, in un articolo intitolato Das Archiv der Römischen Historischen Gesellschaft, Reumann rinnega il metodo narrativo con cui Gregorovius e lui stesso avevano redatto le rispettive Geschichte. Il futuro della storia di Roma non è la Weltgeschichte, ma la Landesgeschichte. Il modo di procedere è quello dell'edizione di fonti. L'articolo del Reumann era un elogio al primo numero dell'archivio della Società Romana di Storia Patria, agli studi del Corbusier, del Ciampi, della Dinolfi, del Giorgi, del Guidi. In Reumann, quindi, più che in Gregorovius, era presente, per usare un'espressione di Raffaello Morghen, quella presa di coscienza di una sempre maggiore complessità della problematica storica che caratterizzò la nuova mentalità dell'Italia unita. Grazie. Forni vielmals zu danken für diese Zusammenfassung dessen, was in seinem Buch geschrieben hat, das gerade eben erst erschienen ist. Ich wusste nicht, dass es einen Text von Herrn Fornis Kommunikation gab. Inzwischen habe ich ihn auch bekommen und Sie haben alle lesen können. Deshalb kann ich mich ganz kurz fassen und sagen, der interessante Ansatz, dessen Ergebnis so überzeugend ist, ist, dass die zwei ganz verschiedenen deutschen Historiker, Gregorovius und Reumann, die gemeinsam haben nur, dass sie nichts mit der Universität zu tun hatten und infolgedessen in Deutschland nicht sehr viel galten, im Deutschland der Universitätsprofessoren, dass also der katholische Rheinländer und der evangelische Ostpreuße die römische Geschichte des Mittelalters in ganz verschiedener Weise gesehen haben, zumal da sie auch sie von einem verschiedenen Ausgangspunkt her sahen, Römer im Zusammenhang einer Geschichte der Stadt Rom von ihren Anfängen bis zum gegenwärtigen Papst Pius IX. Und Gregorovius eben als eine Geschichte der Stadt Rom nur im Mittelalter. Noch? Dann wollen wir jetzt vielleicht zu Herrn Forni Fragen stellen. Ich wollte Sie nur fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass Raymond ja eigentlich das schrecklichste Verbrechen begangen hat, das ein Historiker begehen kann, indem er nämlich in seiner Geschichte der Toskana das Werk eines italienischen Kollegen wörtlich größtenteils abgeschrieben und übersetzt hat und es dabei völlig verschwiegen hat und gegen diesen italienischen Kollegen dann noch später polemisiert hat, weil Antonio Zobi, weil der nach der Vertreibung der Casa di Lorena dann sehr rasch gegen die Lorena schrieb, nachdem er vorher jahrzehntelang für die Lorena geschrieben hatte. Also ich sicher, man kann auch Zobi kritisieren wegen dieses plötzlichen Umschwungs, dass er sofort wieder zur Feder gegriffen hat, in umgekehrten Sinn. Umgekehrten sind als früher, aber das, was Raymond, der sich da auf das hohe Ross des Moralisten setzt, selber begangen hat, ist eigentlich auch sehr zu verurteilen. Sì, grazie per questa precisazione che mette in luce come Raymond in realtà non è, anzi, non è soltanto lo storico di Roma, è soprattutto lo storico della Toscana, lo storico di Lorenzo il Magnifico. Lo storico delle tavole cronologiche sincrone della storia fiorentina. Ha scritto decine e decine, una bibliografia, un elenco completo delle opere di Raymond non esiste. E spesso anch'io ne ho trovate alcune di un certo interesse che non sospettavo. Non so, per esempio, dei diari di viaggio, Reise, Schilder, Undum Risse, aus Südlichen Gegenden, che sono dei diari di viaggio da Costantinopoli a Atene nel 1835 e che rivelano interessi che poi saranno determinanti nella storiografia tedesca, anche in Gregorovius, cioè il passare da una storia d'Italia verso una storia della Grecia. Gregorovius, dopo aver scritto una Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, che era anche una Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter. Però in parte in questo era stato un po' preceduto da Raymond nelle descrizioni dell'ambiente ateniese, Mistra, il mondo bizantino. Quindi la ricchezza delle opere di Raymond è veramente incommensurabile. D'altra parte Gregorovius lo chiamava non troppo benevolmente Raimundus a penna forte, cioè uno che scriveva effettivamente molto ma che spesso non controllava sufficientemente o perlomeno non scavava troppo negli archivi come facevano i suoi colleghi tedeschi e preferiva un lavoro di tipo compilatorio. Lo preferiva, lo diceva di volerlo fare ad utilità di altri. Cioè Farco in realtà la sua posizione, in parte differente da Gregorovius, non è tanto quello di cercare nuovi documenti o di pubblicare nuovi documenti, quanto piuttosto quello di far conoscere agli italiani ciò che si scriveva in Germania e viceversa. Quindi il lavoro compilatorio risulta da sé tutto ciò. E basta scorrere gli indici dell'archivio storico italiano per rendersi conto della massa enorme di lavoro che Raymond ha sviluppato e ha lavorato prima anche sull'antologia d'altra parte, quindi la signora Ritter che vorrei ich glaube ich sollte für die Ottocentisti sagen, dass Raimundus a penna forte eine Anspielung auf Raimund von Penjafort ist, der Redakteur des Corpus Juristi Canonici, also der Dekretarin Gregors des IX., ein großer Jurist des 13. Jahrhunderts ist, der sehr viel schrieb, von dem man also viele Werke hat. Und das hat also Gregorovius auf Raymond mit Raimundus a penna forte, mit der starken Feder, übertragen. Frau. Italiano? Volevo dire allora che esiste in questo contesto una penna forte molto più importante, che forse fa parte della vendetta del mondo non universitario con il mondo universitario, perché pagine di Gregorio Obvious e di Raimond vivono in altra maniera, cioè nella scrittura della penna forte copiata di Thomas Mann, che monta Gregorio Obvious nei romanzi e che monta Raimond nei romanzi, per cui l'entrata dell'eletto è Gregorio Obvious e le descrizioni fiorentine, secondo le fonti, sono Raimond. E quindi, diciamo, la vendetta della non storia, che voi chiamate penna forte compilatrice, è quella che continua a vivere nella lettura dei romanzi e degli scrittori tedeschi, soprattutto di Thomas Mann, che ha saccheggiato Gregorio Obvious. Chiaramente, lo si sa. Come Raimond. Ma io mi sono accorto in effetti più volte di saccheggi operati anche da italiani a volte. Abbiamo parlato di Carducci, per esempio, e Graf, ma Graf spesso utilizza dietro la Roma nella memoria e l'immaginazione del Medioevo, c'è sicuramente la descrizione di Gregorio Obvious. Certo, ma Thomas Mann usa proprio la pagina, il montaggio tecnico, perché l'inizio dell'Erwerte, Lloyd Lewis, è Gregorio Obvious. Cioè, tutti credono che sia Thomas Mann, ma non è, cioè è Thomas Mann, certo. Sì, a volte ci sono delle descrizioni tali, come per esempio quella su Corradino di Svevia, che anche Ampi riconosceva la validità da una parte della descrizione, cioè l'abilità della descrizione di Gregorio Obvious, e dall'altra la fondatezza scientifica. Quindi Gregorio Obvious è molto utilizzato ancora oggi da chi si occupa di storia di Roma nel Medioevo, non può fare a meno, se non altro, di conoscerlo. Si può puntualizzare qualche lato. Raimond è dimenticato perché, essendo un lavoro di tipo compilatorio, è stato facilmente superato. Ma è molto usato dai scrittori tedeschi di quel tempo, dai John Coates, ma hanno tutti usato Raimond. Oggi è un po' meno letto, veramente oggi. Hanno molto usato per montaggi. Capito. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt in der Vita Raimonds hinweisen, der hier noch nicht zur Sprache gekommen ist.